Bene, buonasera a tutti. Benvenuti a Incontro Per con Luigi Ciotti e questa sera abbiamo anche Frigerio, Lorenzo Frigerio, referente di Libera Regione Lombardia. Incontro Per è organizzato dall'Associazione Amici Operazione Mato Grosso. È un gruppo di amici che da giovani hanno condiviso l'esperienza dell'OMG, che è l'Operazione Mato Grosso. Facevamo campi di lavori estivi, raccolte carta, vetro, stracci, rottame e quei fondi che raccoglievamo mandavamo i soldi nelle spedizioni, oggi si dicono missioni, in America Latina, Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Ancora oggi l'Operazione Mato Grosso, da più di 40 anni, tanti ragazzi lavorano gratuitamente per garantire la continuità delle missioni in America Latina, dove ci sono tanti giovani che magari partono per 4 mesi, un anno, o meno giovani, tanti ex giovani che sono rimasti in America Latina, hanno fatto una famiglia e continuano a lavorare nelle missioni. Questi perché hanno appunto fatto una scelta di vita di stare con i più poveri lì. Il gruppo di amici che compongono oggi l'associazione, circa 10 anni fa si sono ritrovati con l'idea anche loro di organizzare qualcosa per raccogliere fondi appunto per mandare a questi nostri amici. Nasce così Concerto Per. Concerto Per è una manifestazione che quest'anno ha raggiunto la 9ª edizione, una festa di 4 giorni che non solo viene proposta una buona cucina, ma anche della buona musica, danze popolari, e quest'anno abbiamo fatto, proprio perché il progetto finanziato quest'anno era una cooperativa di Libera Terra, una serata di teatro con lo spettacolo Nomi, Cognomi e Infami di Giulio Cavalli. Grazie anche ai tanti piccoli e grandi sponsor che contribuiscono alla realizzazione della brochure pubblicitaria della manifestazione, in questi anni siamo riusciti a contribuire per dei progetti in America Latina e non. In America Latina, per esempio, abbiamo per 2 anni consecutivi finanziato un nuovo acquedotto in Ecuador, una biblioteca per una scuola d'arte in Perù e anche una ristrutturazione di un laboratorio di una scuola sempre in Perù. Ma come associazione abbiamo contribuito, dicevo, anche in altre zone. Per esempio, in Sri Lanka abbiamo fatto costruire un laboratorio in cui oggi lavorano circa 80 donne cingalesi che producono oggettistica che viene venduta poi nella rete del commercio ecosolidale qua in Italia. Quest'anno, dicevo, abbiamo contribuito alla nascita di una nuova cooperativa agricola di Libera Terra nella zona di Agrigento. Don Ciotti prima mi diceva che appunto sta partendo. Ora, perché gli amici Operazione Mato Grosso hanno scelto Libera, di finanziare un progetto di Libera? Beh, innanzitutto perché oggi riteniamo necessario stimolare una riflessione sull'impegno civile, sulla legalità, anche perché poi abbiamo trovato diverse similitudini tra le cooperative agricole andine, che ci sono in Perù, in Ecuador, e anche le cooperative agricole di Libera. Una tra le similitudini che abbiamo visto in modo particolare è le difficoltà ambientali. In America Latina le difficoltà ambientali sono i terreni scoscesi, mancano mezzi. Qui invece in Italia le cooperative di Libera hanno delle difficoltà ambientali di diverso tipo. Per esempio, devono continuamente lottare contro la diffidenza, la contrarietà, che spesso diventano minacce, dei poteri mafiosi. A volte trovano trattori bruciati, raccolti distrutti, rubati. Ma soprattutto anche perché le due cooperative hanno questo aspetto. In America Latina, per esempio, recuperano terreno nelle zone andine alte per far stare i giovani sul posto, nel luogo, per lavorare nel luogo, in modo tale da dare loro una speranza, perché la loro l'unica alternativa sarebbe di andare in città e perdersi in breve tempo in malavita o disperazione. Qui in Italia, invece, il recupero dei terreni confiscati dalla mafia creano lavoro, ma soprattutto cultura della legalità nella zona in cui la mafia è radicata nella vita sociale. In parallelo alla festa Concerto Per, l'associazione organizza appunto serate come questa sera, Incontro Per, dove le persone invitate portano le loro esperienze e la competenza nel campo sociale. Abbiamo invitato Don Gallo, Don Giro Rigoldi, Fray Betto, Gerardo Colombro e questa sera appunto Don Ciotti. Infatti l'intento dell'associazione non è solo di raccogliere fondi e basta, ma di dare spunti di riflessione e di aggregazione nel campo del volontariato e impegno civile. Questa sera però abbiamo una pretesa in più. Durante la festa del concerto quest'estate siamo stati contattati da qualche associazione. È già nata l'idea di provare di raccogliere le forze per formare un presidio cantorino per poi collegarsi a un futuro coordinamento comasco di Libera. Perciò mi rivolgo a tutti voi, chiunque interessato a questa cosa, abbiamo intenzione di fare un incontro nel prossimo gennaio, penso, chi è interessato può venire direttamente da me al termine della serata o può mandare una mail ad amici@virgilio.it che è scritto qua dietro. Io ho finito, lascio la parola a Lorenzo Frigerio che introduce un po' la serata. Grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatta, mi rivolgo agli amici che hanno organizzato la serata, ce l'abbiamo fatta perché abbiamo iniziato parecchi mesi fa a parlare della possibilità di avere con noi Don Luigi questa sera. E se non è stato possibile prima è soltanto in ragione di un'agenda che lo vede davvero impegnato dal nord al sud del paese e il fatto che abbia ritagliato una serata per stare con voi, con noi, credo che sia una occasione preziosa. Venendo ci chiedevamo di cosa parlare, ma in realtà quando si invita una persona come Don Luigi, non si invita soltanto Don Luigi, ma si invita tutte le storie che Luigi porta in giro per l'Italia, tutte le storie, le persone, le facce, le sofferenze, le fatiche, le cose belle anche che si sono riusciti a fare in più di 40 anni del gruppo Abele, in più di 16 anni di Libera e le tante reti che Don Luigi ha costruito in questi anni. E quindi io vorrei partire da quello, vorrei partire dando poi ovviamente a voi la possibilità di interagire con noi nella maniera che riterrà più opportuna. Vorrei partire da quelle facce, che sono le facce che incontriamo quando andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi. Sono le vostre facce questa sera, le vostre storie. Sono poi le persone che non ci sono più, quelle che magari sono state strappate dalla violenza criminale, o le persone che ci sono ancora e che soffrono proprio in ragione di questa violenza. Pensiamo ai familiari delle vittime. Chi di voi conosce Libera sa che ogni anno c'è questa giornata, questo appuntamento dove convergono le associazioni, i gruppi, le scuole, ma soprattutto convergono i familiari. Ogni anno ad aprire questo corteo ci sono tantissimi familiari, centinaia e centinaia. Questa schiera di familiari aumenta perché da un lato purtroppo le vittime aumentano e quindi se ne aggiungono di altri, ma aumentano anche perché a volte ci sono storie che vengono ripescate da un passato, storie ancora, lo dicevamo prima, che non hanno avuto giustizia nelle aule di tribunale e magari i genitori, i fratelli, chi è sopravvissuto a questa violenza trova la forza di testimoniare. E per noi quelle giornate sono le giornate più belle, così come sono quelle giornate in cui queste persone, alcune anziane, altre più giovani, vengono e raccontano la storia dei loro familiari agli studenti e ai cittadini. Che sono storie, guardate, più delle volte l'abbiamo visto prima, scorrevano alcuni di questi nomi, non sono storie conosciute, sono storie che i nostri mezzi di comunicazione, che noi giornalisti, mi metto anch'io indegnamente nella categoria, trascuriamo spesso e volentieri per raccontare altre cose, per raccontare l'effimero, per raccontare una politica che è autoreferenziale, per raccontare altre cose che potrebbero benissimo essere tralasciate. E tra le tante facce che questa sera vorremmo ricordare e dare appunto modo a Don Luigi di iniziare a parlare con noi, ci sono anche quelle dei mafiosi, ci sono anche quelle delle persone che hanno in questi decenni occupato anche questi territori. Però lo dico e, come dire, faccio subito una spiegazione necessaria. Non, almeno questo è quello che abbiamo imparato in questi anni di Libera, non pensiamo alla criminalità organizzata, alla mafia e quindi ai mafiosi come qualcosa di estraneo alla nostra vita. o a qualcosa che sia una presenza che arriva, i marziani che arrivano col disco volante e occupano il territorio. Non è così. Se queste persone hanno fatto quegli affari che hanno fatto, significa che hanno trovato qua terreno fertile. E proprio le inchieste che ancora in questi giorni, gli arresti che vengono fatti, ci testimoniano questo. Guardate, noi siamo oramai in fibrillazione, lo dico noi come Libera, anche qua a livello lombardo, con i vari coordinamenti, ne sono nati tre o quattro nel corso degli ultimi due anni e mezzo, tre, proprio sulla scorta, da un lato, della giornata fatta a Milano, 20 marzo 2010, 150.000 persone presenti a testimoniare il loro no alle mafie. Ma lo dico perché appunto anche l'idea che lanciavano questa sera gli amici di costituire un presidio ci vede assolutamente favorevoli e disponibili, ci mancherebbe. Ma siamo tutti, dico, preoccupati di quello che stiamo vedendo in questi giorni, ma se stiamo ai numeri avremmo dovuto essere preoccupati già da molto tempo. Perché noi stiamo parlando oggi di 110 condanne in primo grado, che poi andranno appunto in secondo grado, in Cassazione. Stiamo parlando di una serie di arresti, ieri ne sono stati fatti l'altro ieri altri 10, sono state fatte le perquisizioni anche qua, uno dei legali, un colletto bianco, adesso vediamo che sopra questo colletto ci sono anche delle teste, delle facce. Noi siamo appunto a parlare di questi numeri, ma ci dimentichiamo che a metà degli anni 90 la direzione distrettuale antimafia di Milano ha fatto tutta una serie di maxi processi che ha portato alla condanna di circa 3.000 persone per associazione mafiosa, a metà degli anni 90. Oggi noi siamo spaventati, giustamente, di quello che l'Operazione Infinito e le altre questioni che stanno venendo avanti mettono in luce. Ma che cosa ci dicono quelle 3.000 persone arrestate, processate e condannate con sentenza definitiva? Che abbiamo girato la testa dall'altra parte, che se oggi ci troviamo in questa situazione è perché in quegli anni abbiamo pensato che la questione non ci interessasse. C'erano anche tutta una serie di fattori ambientali che giustificano questa rimozione, perché i riflettori sulla Procura di Milano in quegli anni c'erano per le vicende di Tangentopoli. Ecco, impariamo a guardare questi fatti, le cose di cui stasera sentiremo anche ragionare con noi Don Luigi, pensando che sono cose che ci riguardano. Sono cose che ci riguardano e che ci mettono in discussione, che mettono in discussione il nostro stile di vita, che mettono in discussione il sistema produttivo che al nord si è costruito con soldi sporchi. E chiudo davvero, a me ha colpito un'affermazione fatta a un corso di formazione dal procuratore aggiunto Francesco Greco di Milano. E diceva questa cosa Greco, con questo vi invito a riflettere anche sulle questioni che ho cercato di porre in maniera confusa. Dice, noi oggi parliamo di economia illegale, in realtà dovremmo parlare di economia che si è fatta illegale, tutte insieme, perché se ai tempi di Falcone, diceva Greco, era facile tracciare, o comunque facile per chi lo volesse fare, Falcone e altri l'hanno fatto, un confine netto tra l'economia legale e quella illegale, lo si poteva fare. Oggi non è più possibile questo. Tanto lui diceva che una espressione come riciclaggio, il termine che viene usato, la traduzione italiana del termine inglese che significa lavaggio del denaro, il riciclaggio, oggi che è quella tecnica che viene usata appunto per ripulire il denaro sporco e investirlo in affari legali, oggi noi quell'espressione la dobbiamo leggere esattamente al contrario. Cioè il riciclaggio come quella tecnica che viene utilizzata per trasformare denaro pulito, a questo punto pulito con molte virgolette, in affari sporchi. E questo ci dice della commistione profonda che c'è tra economia legale ed economia illegale. Ecco, ho cercato di fare un quadro che è assolutamente non esaustivo rispetto alle tante questioni che ci porrà Luigi, che è sui temi della legalità democratica, del contrasto alle mafie, della promozione dei diritti, si è speso, continua a spendersi e ha costituito insieme a tanti altri questa rete di speranza per il nostro paese. Quindi a partire da queste facce, a partire da queste storie che dietro Luigi ci sono e che lui ci racconta questa sera, cerchiamo insieme di fare fruttare bene queste ore che passeremo insieme. Sollecita le domande, allora facciamo la domanda. La prima domanda è questa, abbiamo parlato per anni di contrasto alle mafie. Anche questa sera siamo qua grazie a questa raccolta di fondi che viene fatta per una cooperativa al sud, e a volte c'è il rischio che si pensi che le mafie siano appunto una questione del sud. Tu per anni invece hai sempre battuto il chiodo dicendo il problema è al nord, il problema è a Roma, il problema è la politica che se non cambia rischia di travolgere tutto. Da questo puoi partire. Buonasera e grazie. Sì, è vero, io dico che la lotta alla mafia la si fa nei singoli territori, la si fa mettendo in grado di poter operare nel modo giusto la magistratura, le forze di polizia, che devo dire a loro deve andare molta stima e riconoscenza per il generoso impegno con il quale tutti i giorni in molti contesti si spendono. Anche se a volte anche lì ci sono delle zone grigie, delle persone che per mille altre ragioni stanno dall'altra parte. La lotta alla mafia, voi me lo insegnate, si fa con le politiche sociali, con la giustizia sociale, con il lavoro. 2,5 milioni di giovani in Italia sono senza lavoro. E la lotta alla mafia la si fa offrendo opportunità concrete, il sostegno alle famiglie, i servizi sociali sul territorio, con la sfida educativa e coi percorsi culturali. Però la lotta alla mafia non la si fa né in Sicilia, né in Calabria, né a Milano. La lotta alla mafia la si fa a Roma. La si fa nell'aula del Parlamento con le leggi giuste, con le leggi puntuali, con le leggi efficaci. Questo è il problema. E il problema, credo, ma voi me lo insegnate, ce lo diciamo in italiano, che se la politica è debole le mafie sono forti, questo ci ha insegnato la storia, e che se la democrazia di un paese è pallida le mafie sono ancora più forti. Ed è per questo che noi ci troviamo in una situazione paradossale in questo momento, in cui si stanno rigenerando, si rigenerano con nuove strategie, nuovi metodi, una mafia liquida che penetra dentro le fessure del sistema con estrema facilità. E quindi c'è questo forte richiamo, io credo, a ciascuno di noi, di leggere un po' questa realtà con questa attenzione, soprattutto in questo senso. E per chiedere alla politica che faccia fino in fondo la propria parte, con le leggi giuste, gli interventi giusti, ma che non è solo la risposta che ben venga dal punto di vista giudiziario, investigativo, ripeto, ogni giorno abbiamo dei risultati davanti agli occhi, ma non usciremo mai, ma proprio mai, non usciremo mai se non si affronta il problema sociale, proprio quel fermento sociale nei territori e nel quadro generale del paese, proprio il problema del lavoro, che vuol dire dignità e libertà per le persone. Allora questo è un pochettino il primo punto per rispondere alla tua domanda. Che lo leggo subito un secondo punto, che voi avete ben chiaro, che la forza delle mafie non sta dentro le mafie. La forza delle mafie, voi lo capite, l'avete visto, anche le ultime operazioni, gli ultimi risultati, i giornali di oggi, di ieri, la forza delle mafie non sta dentro, ma sta fuori dalle mafie, sta in quei comportamenti che permettono al sistema mafioso di espandersi. Allora in questo senso mi sembra importante dire, sono cose che voi conoscete, ma noi ce le ripetiamo con forza questa sera, che il problema è uno dei problemi è che nella società italiana c'è uno zoccolo duro che vive nell'illegalità, e c'è un pezzo di classe dirigente che, pur non vivendo direttamente nell'illegalità, con il mondo dell'illegalità fa i suoi affari, i suoi scopi, i suoi giochi, i suoi interessi. C'è uno zoccolo duro della nostra società che ha scelto la legalità sostenibile, che ha scelto la legalità malleabile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non rispetto le regole. Questo individualismo, questo egoismo sociale ci porta oggi a una situazione certamente molto grave, che è davanti agli occhi di tutti. Allora, da una parte si è parlato con molta enfasi del contrasto alla criminalità, alle mafie, ai beni confiscati. Ecco, io vorrei proprio per onestà sottolineare l'importanza di tutto questo impegno, di questo lavoro, stima, riconoscenza a chi l'ha fatto, chi lo sta facendo. Il nostro dovere è far emergere le cose positive che ci sono, e ce ne sono tante, ma anche la responsabilità di una denuncia seria, chiara, attenta, documentata. Allora, in questo senso, io credo che parlare dei giochi criminali, delle mafie, dell'illegalità, della corruzione, del riciclaggio, non sia un problema che riguarda qualcun altro da lontano, ma è un problema che, pur in forme diverse, con colori diversi, riguarda tutti noi. Allora, in questo senso, mi pare importante la tua sollecitazione, in cui uno si guarda dentro la propria realtà, dentro il proprio territorio, si chiede e si deve interrogare rispetto a alcuni avvenimenti che sono successi, ma soprattutto non deve perdere la memoria delle mafie al nord ci sono da oltre 50 anni, e quindi io mi sono stupito di chi si stupisce. I numeri che poco fa sono stati dati degli anni 90 di quelle grandi operazioni che hanno portato oltre 3.000 persone a essere acciuffate, processate, dove si è dimostrato il loro coinvolgimento dentro questi giochi, e beh, questa è una responsabilità di non dimenticare, il dovere della memoria, una memoria che deve essere trasmessa. A Torino hanno ucciso in quegli anni il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia, Bardonecchia nello estremo nord-ovest d'Italia, commissariata per infiltrazione mafiosa. Io sono un veneto e nella Veneto la mafia del Brenta con Maniero, ma tutti i giri, gli affari, gli intrecci con le altre mafie del nostro paese. Non c'è regione d'Italia che può dichiararsi esente oggi più che mai. Vuol dire con molta umiltà e con molta forza prendere coscienza di tutto questo. Prendere coscienza di tutto questo. Allora, credo che il problema che questa sera merita sottolineare insieme è il problema della democrazia. Sì, della democrazia. Perché voi insegnate che la democrazia si fonda su due doni. I due doni della democrazia. E quali sono i due doni della democrazia? Uno è la giustizia sociale e l'altro è la dignità umana. Questi sono i due doni della democrazia, la giustizia e la dignità umana. Ma voi mi insegnate che senza una parola viva, necessaria, senza la quale la democrazia non starà mai in piedi, questa parola si chiama responsabilità. La spina dorsale della democrazia è la responsabilità. Cominciando dalla nostra responsabilità, il nostro impegno per la democrazia nel nostro paese, chiama in gioco, chiama in causa anche ciascuno di noi. Certo, parliamo di mafie, di legalità, di corruzione, di riciclaggio, di tutto quello che conosciamo, che possiamo condividere. Io poco fa ero a Brescia, dove abbiamo parlato della tratta degli esseri umani, dei traffici degli organi, dei 7 miliardi di euro delle mafie gestiscono nell'agroalimentare. Abbiamo parlato assolutamente di queste donne della prostituzione. Lì abbiamo trattato questa dimensione, la storia dei migranti e i giochi criminali che stanno alle loro spalle, rispetto al lavoro nero, il caporalato, i tanti volti dell'illegalità, della violenza e spesso anche di queste connessioni coi giochi criminali e mafiosi, non sempre, ma spesso sì. Ma anche lì ci siamo detti che la spina dorsale è della democrazia, questo nostro impegno che vede proprio i due doni della giustizia, della dignità umana e della responsabilità. E voi mi insegnate che responsabilità, il valore etimologico vuol dire rispondere, responsabile è chi risponde. E chi risponde? Chi risponde? Allora, in questo senso, se noi guardiamo la nostra Costituzione, possiamo anche dire che la spina dorsale della Costituzione, ancora una volta, è la responsabilità. La Costituzione ci dà i diritti, ma ci chiede anche i doveri, ci chiede anche di rispondere, di fare la nostra parte. Allora in questo senso è molto importante, certo parlare delle mafie, dei giochi criminali, il dibattito amaro che si è aperto in questi giorni, ecco, il dovere di non dimenticarci che la cultura che dà la sveglia alle coscienze. E quando il ministro mesi fa ci ha detto che la cultura non dà da mangiare, noi abbiamo risposto che abbiamo fame di cultura, fame di cultura. E la cultura ti dà anche i maggiori strumenti per essere le persone libere. Ma la cultura dà anche lo stato di salute della democrazia di un paese. Abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di dimensione educativa, l'educare la responsabilità e la responsabilità dell'educare, la meraviglia dell'impegno di tante scuole, di tante università, che devono essere messe con dignità in grado di poter operare meglio. E soprattutto le politiche sociali, non ci stanchiamo mai di ripeterlo, 2,5 milioni di giovani senza lavoro nel nostro paese. E allora uno va a vedere chi sono gli arrestati, o uno va a vedere in alcune zone del sud, e faccio solo degli esempi, spero con grande rispetto, mai generalizzando, mai semplificando e, ripeto, non dimenticando mai le positività delle cose che avvengono, è il nostro dovere far emergere anche le cose positive che ci sono. Ma questa sera affondiamo un po' in alcuni nodi, in un'area grigia, in alcune grandi contraddizioni. E se voi andate a vedere alcune operazioni fatte al sud, certo dei nomi importanti, ma in alcune recenti operazioni in Sicilia si è visto che a fianco di alcuni nomi più importanti, la maggioranza degli arrestati sono ragazzi giovani. Ma la cosa sconcertante che vi dà il segnale, il vero segnale, è che la maggioranza di questi ragazzi giovani arrestati non appartengono a nessun clan, a nessuna famiglia mafiosa. Allora stanno reclutando di nuovo. Allora a fianco, ripeto, di quelle positività, di quella generosità, di quel lavoro, di quella riconoscenza che noi dobbiamo avere per quanti si sono spesi e si stanno spendendo, dall'altra parte emerge, immaginate solo quello che emerge e quanto altro non emerge, perché uno avesse più strumenti, più mezzi, più possibilità, molto di più proprio emergerebbe in questo momento. Allora c'è una domanda a cui bisogna rispondere, per piacere: come mai è da 150 anni che noi parliamo di mafia in Italia, da 150 anni che parliamo e oltre delle mafie, e tutti che in un modo o nell'altro si sono succeduti nell'arco di 150 anni a parlare del contrasto alle mafie, pur nelle varie espressioni? Ma allora qualcuno deve dirci come mai dopo 150 anni siamo qui ancora a parlare delle mafie. E la risposta voi la sapete, e tutti ne parlano, ma di fatto non tutti si impegnano veramente fino in fondo nel contrasto a questa violenza, a questi crimini, a queste forme di illegalità. E basta vedere quello che ha scritto il 10 maggio di quest'anno, non Libera. Quindi noi possiamo scrivere delle cose, certamente lo facciamo. Ma la Banca d'Italia, nella persona del suo vice direttore, Anna Maria Tarantola, e uno va a vedere cosa è stato detto da questo organo così sempre serio, documentato, che misura le parole. Quando noi abbiamo letto questa relazione, l'abbiamo sentita, siamo saltati, si dice, sulla sedia. Perché? Perché il 10 maggio nel rapporto della Banca d'Italia, per voce di Anna Maria Taranto, la vice direttore centrale, lei ha lanciato in modo serio, attento, documentato, un allarme rispetto al peso del riciclaggio sull'economia italiana, che secondo le stime della Banca d'Italia, quindi non nostra, infatti, signori, il riciclaggio vale il 10% del PIL, un dato doppio rispetto alla media mondiale. Allora uno dice, non è possibile, Abbiamo bisogno di un'informazione seria, di poter conoscere. Dobbiamo sconfiggere insieme un peccato, il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano, che ho sentito dire, ho letto alla televisione, l'ho letto lì, non basta. Abbiamo il dovere di scendere in profondità per conoscere, per essere poi più responsabili, meglio corresponsabili. Certo, il riciclaggio, i flussi criminali in senso stretto rappresentano, dicono gli organi competenti, solo il 30-35% del totale. Parliamo dei giochi criminali delle mafie, del riciclaggio. Il rimanente è invece legato a pratiche commerciali illecite, al furto, alla corruzione. Ma già questo dato è impressionante, impressionante, eccetera. Ma cosa dice la tarantola? Vi leggo 6 righe. Guardate, detto da quella fonte, fa veramente pensare, ma è la verità che è emersa anche in questi giorni davanti agli occhi di tutti. La tarantola nel suo rapporto sul riciclaggio dice: il riciclaggio rappresenta un ponte fra criminalità e società civile, che offre ai criminali, che dovrebbero essere per definizione banditi dalla società, offre gli strumenti per essere invece accolti e integrati nel sistema, arrivando a sedere nei consigli di amministrazione e a contribuire all'assunzione di decisioni economiche, sociali e politiche rilevanti. Terribile. Terribile. Dovrebbero essere per definizione banditi dalla società, detto dall'organismo così serio e attento. E ci dicono loro che sono lì nei consigli di amministrazione e decidono a livello economico, sociale e politico. È uno dei grandi segnali. Certo, parliamo anche delle mafie, ma parliamo anche delle mafie. Dobbiamo aprire lo sguardo 360 gradi e cogliere quelle varie forme di illegalità, che alimentano poi i grandi giochi criminali, che fanno da terreno fertile a tutto questo. E quando la Corte dei Conti, organismo dello Stato, ci dice che la corruzione pubblica, parliamo di corruzione pubblica, l'anno scorso circa, Corte dei Conti, 60 miliardi di euro, e poi ci vengono a dire che non ci sono soldi per le fasce deboli, per i servizi alla povera gente, e chi di noi ha delle cooperative, tutti i giorni siamo lì con chi fa più fatica, la prima cosa che diciamo è che i soldi, innanzitutto ci devono andare a prendere là. L'evasione fiscale, la corruzione pubblica, forme di riciclaggio, un lungo elenco, e poi quella proiezione molto prudente, una proiezione molto molto prudente, perché se avessimo i dati esatti non staremmo più a discutere di quanto guadagnano le mafie, non lo sappiamo, ognuno spara delle cifre, c'è la gara a sparare delle cifre, ma se sapessimo così perfettamente tutto, però prendiamo una proiezione minima di quello in base alle operazioni fatte, a tutta una serie di informative. Mettiamo questa cifra che abbiamo letto ultimamente, ma molto prudente. Se assommiamo tutto questo, oggi viene fuori circa 560 miliardi di euro. Allora voi capite che con molta umiltà io lo dico, con rispetto, non dimenticando le cose positive, credo che sia anche un atto d'amore. D'amore, perché abbiamo bisogno che questo denaro serva per la libertà e la dignità delle persone, per progettare la speranza al volto dei progetti per la gente. La speranza vuol dire opportunità da offrire alle persone. La speranza vuol dire innanzitutto giustizia sociale. Allora abbiamo bisogno di questo. Certo, le mafie, ma con le mafie quelle varie forme di illegalità che ci toccano da vicino. Ci toccano da vicino. Allora voi capite che quando noi diciamo lo dite anche voi, che la forza della mafia sta fuori dalla mafia, e già i mafiosi, i loro obiettivi, i loro affari, riescono a realizzarli con chi? E l'avete visto con chi? Con quell'aria grigia, in cui ci sono gli esperti, ci sono i professionisti, segmenti della politica, purtroppo anche della magistratura. È quest'aria grigia che mi fa ricordare un signore che voi di nome certamente avete letto, quel suo libro che nessuno di noi che l'ha letto lo potrà dimenticare, Se questo è un uomo, Primo Levi, Se questo è un uomo. Io lo ricordo perché al Gruppo Abele, tu conosci Cecilia, che ha sposato il figlio di Primo Levi. Tutti i giorni quando lo incontro penso alla storia di quella famiglia, campi di sterminio, forni crematori, lui sopravvissuto a tutto questo, a quei milioni di persone spazzate via da quella violenza, da quell'odio, Se questo è un uomo, è proprio Primo Levi, scrisse le due facce dell'ingiustizia, l'assenza dei diritti è la zona grigia. La zona grigia che ho riletto in questi giorni, ne ha parlato Primo Levi, la zona grigia. E la zona grigia, quella zona di confine tra la legalità e l'illegalità, tra la giustizia e l'ingiustizia, tra il lecito e l'illecito, è questa zona grigia. Ma la zona grigia io chiamerei nera, perché più nera di così qui non è. Ma questa zona grigia, no, che è fatta di persone che tengono un piede qui, un piede là, pone anche a me una riflessione. Perché voi capite che non si uccide solo con le armi, si uccide anche con il silenzio, con la delega, con lo stare alla finestra a guardare, col pensare che certi problemi riguardano sempre solo gli altri. Allora in questo senso io credo l'essere qui questa sera con voi che avete voluto questo momento, e poi per me è la gioia di pensare a Federazione Mato Grosso, perché io ho conosciuto Don Franco che l'ha fondata allora, e poi la malattia l'ha spazzato via molto molto in fretta, visto nascere questa meraviglia che continua a distanza di anni ad essere questo ponte tra le nostre realtà e quelle aree del mondo in cui c'è bisogno di un polmone per vivere, per avere una dignità. E penso nel mondo però anche ai paradisi fiscali. E quando gli organi competenti ci danno per difetto una proiezione, io non riesco a capirla, perché la stima ufficiale che nei paradisi fiscali, che sono in gran parte in mano alle stesse nazioni che dicono che bisogna eliminarli, vedi Francia, Inghilterra, eccetera, eccetera, la stima ammonta dai tecnici, fatta da tecnici, quindi non certo, ancora una volta, noi non siamo qui a sparare numeri, perché c'è un senso della responsabilità di ogni numero che si dà. Quando ci parlano che nei paradisi fiscali ci sono 11 trilioni di dollari, io non so come si traduca, 11 trilioni di dollari, depositata lì, evadendo ogni forma di tassazione, ma questo è solo il calcolo del deposito dei privati, senza considerare le imprese. Ma io non so come si può tacere. Io non so come non ci possa essere una rivolta delle coscienze qui dentro. Io non so. E quando si scopre che si calcola che il 60% del commercio mondiale di beni e di servizi transita fiscalmente tramite paradisi fiscali, così pagano di meno questi flussi illeciti e criminali che non sono intaccati dalla crisi. E oggi le mafie, non a caso, fanno da banca a piccole e medie imprese in difficoltà. Lo fanno attraverso pseudo società finanziarie, fanno con dei prestanomi, sono loro che imprestano il denaro. Vi chiedo loro il senso delle banche che dovrebbero favorire, certo con dei giusti paletti, e si calcola che un ulteriore trilioni di dollari di ricchezza privata si sia spostato nei paradisi fiscali in seguito alla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni, di più, sempre, avanti. E allora, signore, è qui che io chiedo che mi diano delle risposte, lo chiedo alla politica, lo chiedo a quelle istituzioni che hanno una grande responsabilità. Abbiamo bisogno di verità, perché non si costruisce giustizia, non si costruisce la pace senza la verità. Abbiamo bisogno di verità, di verità. Lo scudo fiscale che cosa ha riportato a casa? Alla fine soltanto il 35% di quei 90 miliardi condonati sono effettivamente rientrati in Italia. In ogni caso, come erano tassati nel modo anonimo, è stata una piccola cifra quella che è stata recuperata nel nostro paese. E allora in questo senso io credo la corruzione, il riciclaggio, forme di sfruttamento e di lavoro nero, quindi una lettura molto più ampia. E quindi cancellatela per un momento la parola mafia dalla nostra testa, che non ci tragga l'inganno. C'è una realtà con cui siamo chiamati a confrontarci, ma andiamo a leggere tutta una serie di altre espressioni che attraversano i nostri contesti, le nostre realtà, magari in forme diverse evidentemente, e che quindi impongono a ciascuno di noi una maggiore attenzione e una maggiore partecipazione. Ma la zona grigia di Primo Levi, quest'area di confine tra legalità e legalità, giustizia e giustizia, lecito e illecito, io credo, e voi mi capite in che senso lo dico, che prima che un luogo fisico è un luogo mentale interiore, perché la zona grigia ci può essere anche la nostra testa, nel senso di non avere quella forza, quella determinazione, si lascia che le cose vanno, a volte siamo anche un po' scoraggiati evidentemente di tutto quello che ci ha circondato negli ultimi tempi, ma questo non può diventare un alibi né per me né per voi. E voi mi insegnate che l'illegalità affonda le radici nella debolezza morale di una comunità. Le mafie e la criminalità hanno oggi un solido alleato nell'illegalità diffusa. È proprio diffusa, no? Furbizie, sottovalutazioni, se mi serve rispetto alla regola, se non mi serve mi arrangio. E quindi non è solo quella là. E questa è la criminalità, la grande criminalità, trova un solido alleato dell'illegalità diffusa, che trovano nelle coscienze di chi li commette questi reati il più accomodante dei giudici, perché ci si autoassolve. Io ho fatto questa cosa, ma tanto la fanno tutti. Cosa venite a chiedere conto a me? Fanno tutti così. Ci si autoassolve. Questa illegalità diffusa trova nelle coscienze di chi le commette il più accomodante dei giudici, lo ripeto, il più accomodante dei giudici, che siamo noi stessi, a volte che ci autosolviamo. Io credo che questa sia la malattia degenerativa della democrazia nel nostro paese. Ripeto, e chiedo scusa, mi chiedo proprio scusa, non voglio mai generalizzare e non voglio mai dimenticare le cose positive. Voi che siete qui questa sera, a quest'ora di venerdì, in tanti, beh, è una meraviglia, vi fa onore, incoraggia me, che domani mattina alla luce dell'alba vado in Puglia, ieri ero in Calabria, mi ero preso l'impegno oggi presso l'università, fuori l'incontro con Libera, stasera eravamo insieme sulla tratta, ho concentrato in questi giorni, perché poi io vivo con la povera gente, con i poveri cristi, quella è la mia vita, e poi Libera ci mangia proprio, e ognuno di noi, ma penso ai vostri sacrifici, al vostro impegno, alle vostre famiglie, come tutti, quando facciamo la nostra parte, beh, non è semplice, non è facile. Quindi per me è sentita la stima, l'affetto per i vostri riguardo, anche la gratitudine di essere qui a riflettere. Quindi per me è già positivo questo segno, ma anche per chi è già impegnato, anche per chi è già impegnato, io credo che il morso del più oggi deve appartenere a tutti. Di fronte a questo quadro dobbiamo sentire più forte la nostra corresponsabilità per un cambiamento. Io la definisco una grande avventura spirituale. Spirituale. Ecco allora che la lotta per la democrazia non può che partire da un risveglio delle coscienze, da una lotta alle tante zone grigie che impoveriscono la nostra vita. E la cultura è certamente una delle grandi scienze, la sveglia delle coscienze, il conoscere, il sapere, l'assumersi di più delle responsabilità. C'è un signore, che forse qualcuno di voi dirà molto poco, ma chiama in carcere un uomo di Cosa Nostra, chiama in carcere il magistrato qualche anno fa, ma la sostanza non cambia oggi, e a verbale il magistrato scriverà: questo signore che chiama il magistrato è Pietro Allievi. A qualcuno di voi dice niente, a qualcuno magari gli ricorda chi è Pietro Allievi. Pietro Allievi ha fatto anche il seminario da piccolo, ho capito bene, ecco. E Pietro Allievi sarà quel personaggio che quando era latitante, uomo di Cosa Nostra, c'era un frate, sacerdote, perché alcuni frati non sono frati, quindi sono frati sacerdoti, che andava a celebrargli la Santa Messa nel covo del latitante, che si era fatto anche l'altarino, forse remolo della sua esperienza in seminario, non lo so. Io non so veramente, credetemi, con grande rispetto, con grande amore per il Padre Eterno, quella Eucaristia lì, no, questo Padre Eterno non so come potesse sopportarlo. Non lo so. Ma di Pietro Allievi ne parleremo fra poco. Ma quello che diventa importante è quando lui, a un certo punto, chiama il magistrato in carcere e dice una cosa, che io vi leggo, a verbale. Pietro Allievi dice: quando voi venite nelle nostre scuole a parlare di legalità, di giustizia, di rispetto delle regole, di civile convivenza, i nostri ragazzi vi ascoltano e vi seguono. Ma quando questi ragazzi diventano maggiorenni e cercano un lavoro, una casa, assistenza economica e sanitaria, a chi trovano? A voi o a noi? Dottore, trovano solo a noi. È amara la dichiarazione di Pietro Allievi, intelligente Pietro Allievi. Mette in difficoltà il magistrato. Voi andate a parlare alle scuole, tanti lo fanno, lo facciamo anche insieme. Ma poi, che cosa trovano dopo la scuola? E quando ho detto prima, della terza volta che lo dico, ma sono cose che voi vivete e diventano anche un po' la vostra fatica, le vostre preoccupazioni, le vostre speranze, che 2,5 milioni di ragazzi non hanno prospettive di lavoro oggi, allora qui dobbiamo parlare di giustizia sociale, di politiche sociali, di creare quel fermento in quei territori che diventa la vera prevenzione a tutto questo. Non è tutto qui, evidentemente, e sarebbe da parte mia una semplificazione, ma certamente è una parte molto, molto e molto importante in questo senso. Questo risveglio, quindi. Questo risveglio, amici, di cui veramente abbiamo tutti tanto e tanto bisogno, oggi più che mai. Ma aveva ragione, spero di trovarlo, non lui, ma i miei appunti. Aveva ragione, sapete, un signore di nome Paolo Borsellino. È stato un profeta Paolo Borsellino. Perché nel momento di maggiore euforia, quando i giornali uscivano, molti di voi si ricordano, tagliata la testa alla piovra, il maxi processo, centinaia di uomini di Cosa Nostra alla sbarra, il primo collaboratore di giustizia Buscetta, Falcone che riesce a tradurre e a leggere gran parte dell'organizzazione e dell'impostazione di Cosa Nostra. Si apre una falla e quindi una marea di operazioni, di interventi, di persone allo sbarco. È stato un altro momento importante della storia del contrasto, in questo caso a Cosa Nostra, Sicilia e non solo. Ma tutti noi ricordiamo quei titoli. Anche quel clima che si respirava sembrava la grande svolta. Ci sarà un uomo che andrà controcorrente, è Paolo Borsellino. Aveva ragione, perché Paolo Borsellino diceva: pericolosissima illusione. Non sono consentiti allentamenti di impegno, di tensione, non perniciose illusioni di cessata pericolosità, solo in presenza di un calo statistico degli episodi di violenza, peraltro niente affatto scomparsi. L'ho detto nel momento in cui c'era in questo paese proprio tirare un po' il fiato, vedere quelle gabbie, quella mobilitazione, sembrava la grande svolta. E invece non è stato così. Poi la tensione è ricaduta, i tran tran, e si sono riprodotti, e sono arrivati a quelle stragi. E oggi siamo ancora qui, a Cantù, a dire pericolosissima illusione. Lo diciamo nel momento di grande stima per il lavoro di magistrati, delle forze di polizia, di uomini delle istituzioni e lasciate dire anche di tante parti del corpo sociale, delle associazioni, di voi che siete qui, di segmenti della scuola che sono fortemente impegnati, di pezzi di università. Noi con Libera abbiamo firmato con il 75% delle facoltà universitarie italiane i protocolli per portare corsi, momenti di aggiornamento, in alcune realtà master. Ieri mattina io ero a Cosenza all'università, dove quei ragazzi hanno fatto dei percorsi con gli insegnanti, con quei professori. Che meraviglia! Anni fa non avremmo parlato di tutto questo. Anni fa non avremmo parlato di quel milione di firme che Libera ha raccolto nel 1996, perché il sogno di Pio La Torre, che non vide la sua legge perché fu ucciso 4 mesi prima, legge che nell'82 stabiliva insomma cos'è sta benedetta mafia e agli mafiosi, ma poi parlava di confiscare i beni. Non funzionerà quella legge per la seconda parte. E quando Libera nasce dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, questa rete che si è ingrossata a livello nazionale, e ben venga che si aprono altre realtà, che si coinvolga più persone, che ci impegniamo di più tutti insieme per graffiare la realtà su questo cancro che ci sta distruggendo, corruzione e giochi criminali mafiosi e tutto quello che comporta in questo senso, ebbene, momento importante e fondamentale della nostra storia, questo. Dobbiamo unire le nostre forze. E quando nasce Libera, noi la prima cosa che andiamo a fare, diciamo, vicinanze familiari. Facciamo in modo che una giornata diventi la giornata nazionale del memoria dell'impegno. Peccato che in commissione, in questi giorni, c'è una parte della maggioranza attuale che non vuole che questi 16 anni di memoria che Libera ha costruita con 1600 associazioni, con i familiari delle vittime, no! Non vogliono che sia il 21 di marzo, capite? Questo gioco di politici, la proposta che sia il 23 di maggio, non il 21 di marzo, che noi abbiamo scelto una giornata neutra per rispettare tutti i familiari, che i familiari non vogliono che sia la giornata di qualche un altro, ognuno deve poter ricordare i suoi, ma sia una giornata in cui li ricordiamo tutti insieme. No, pur di contrapporsi a 16 anni di cammino, a quel percorso fatto con centinaia di familiari, ieri ci hanno chiamato per dirci che di nuovo stanno riproponendo il 23 di maggio, Ma molti familiari dicono no, non vogliamo una data stabilita, vogliamo un giorno neutro, quello che in 16 anni abbiamo costruito insieme. Eravamo in 150.000 a Milano a camminare prima che il mondo scoprisse le mafie al nord, ma che c'erano già da prima. Quest'anno saremo a Genova. Siamo stati dopo Milano potenze in 80.000 sotto la pioggia, certamente non facile da arrivare, stretti a quei familiari, per dire che c'è un'Italia che non li lascia soli, che non ricorda i loro familiari solo nei giorni vicini, ma anche nei giorni lontani, perché il dolore e quelle ferite stanno anche nei giorni lontani. E allora questo fermento di positività, che qualcuno vuole scippare, vuole mortificare, per altri giochi, perché dicono che questa giornata di Libera è la giornata della sinistra. Ma in Libera c'è Azione Giovane di Reggio Calabria, c'è l'Azione Cattolica, c'è la GESCI, non c'è sinistra, non c'è destra. Libera sta solo da una parte, dalla parte della legalità, dei diritti, della giustizia, della pace. Da quella parte dove dovremo stare tutti insieme. Da quella parte dobbiamo stare. Da quella parte dobbiamo stare. Abbiamo collaborato con tutti, ma proprio con tutti. E quando il governo che ha lasciato adesso è stato proposto da un ministro di questo territorio, l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che noi chiedevamo da tempo, ma la gioia di tutto questo, la gioia, ma veramente, quando vengono fatte proposte serie nell'interesse del bene comune, chiunque le fa deve essere stimato, riconosciuto e sostenuto su quel particolare, poi magari piegheremo su altro, ma far emergere il positivo sì, non ci possono essere colori, non ci possono essere etichette. La grande gioia che io sento qui dentro, e credo che condivido con Lorenzo, con molti altri, perché stasera qui non è venuto Luigi Ciotti. Non è venuto Luigi Ciotti. Io faccio parte di una realtà, fa di tante parti, di tante persone, di tante storie, di tanti volti. Sono venuto con gioia e volentieri. Però so che io nel mio piccolo sono qui perché tanti altri si spendono tutti i giorni, e questo noi, e voi del Mastro Grosso lo sapete che è noi che vince, tanti io che fanno un noi di progetto, di proposta, che diventa la vera speranza, perché la speranza o è di tutti o non è speranza. Allora in questo senso noi abbiamo questa grande responsabilità, questo nostro impegno, questo nostro fare, questo nostro collaborare per far emergere le cose positive. In Libera tu troverai da Lega Ambiente, io vado a chiudere il congresso, parteciperò a Bari domenica, loro cominciano stasera o domani, e che bello, è una realtà che aderisce a questo progetto, perché le ecomafie innanzitutto. Troverai la GESCI e la Chiesa Valdese, pezzi di sindacato e giorni degli studenti, trovi la FUCI e altri tipi di associazioni. Questa è la ricchezza, questo lavorare insieme con umiltà, coi piedi per terra, e questa è, penso, le scuole che fanno parte di questi progetti, le università, ecco tutto questo fermento. Ma nonostante tutto questo, che sono segni importanti e positivi, questa sera ci diciamo anche noi qui, con i piedi per terra, con rispetto, con conoscenza, perniciose illusioni. Ma lasciatemi, perché voi siete generosi e bravi, e io vi sono grato, lasciatemi che vi ricordi quelle parole che voi certamente, che è qualche anno di più, io non riesco a vedervi perché c'è un buio qui davanti, io sono in luce e voi siete al buio. Ma so che siete lì, faccio così, non vi vedo, non riusciamo a vedermi, ma lasciatevi e ricordi, soprattutto a chi ne è stato protagonista, ma poi sti ragazzi nostri, giovani, io ve lo dico con sincerità, sono meravigliosi. quando mi dicono i giovani, i giovani qui, ma i giovani sono meravigliosi. Hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. Ma quando trovano questo si spendono, ci sono, hanno una creatività, hanno voglia, hanno voglia, hanno voglia. Poi troverai anche la poltronita acuta, troverai anche certi tipi di situazioni. Arrivando qui mi sono un po' preoccupato perché ho visto dei locali con tutte quelle macchinette che ti risparmio, e tu sai che gli affari delle criminalità organizzate, delle mafie, cioè le cifre del gioco illegale, sono uguali se non superiori a quelle del gioco legale nel nostro paese. E ogni volta che nasce il nuovo gioco, subito, ma pensa che capacità, subito nasce uno parallelo clandestino, subito. Le vincite sono maggiori e soprattutto non sottoposte a tassazione. E se posso dire, le mafie sono brave da quel punto di vista. Tu fai un gioco, ufficializzi, dall'altra parte senza tasse, no, e poi li trovi tutte, no, eccetera. Ma le mafie approfittano anche delle scommesse legali. non sufficienti strumenti di sorveglianza, mancano forze sostanzialmente, no? Non ci sono più i casinò ci sono, ma fanno di meno. Ma queste sale giochi, ragazzi, ve le risparmio, sono usate in molte realtà, anche qui vi prego, non voglio generalizzare, ma voi lo sapete meglio di me che sono usate in molte realtà per lavare il denaro. E nel covo di Lo Piccolo, uomo di Cosa Nostra al Stato, c'erano tutti i pizzini per controllare le sale da giochi, i pizzini. Vi devo anche dire che nel covo di Bernardo Provenzano, quando lui mandava i pizzini, scriveva sovente: il Signore vi benedica e vi protegga. Cioè Bernardo Provenzano mandava la benedizione nel pizzino. Ma via, siamo arrivati a... Ecco. E nel covo di Lo Piccolo si è trovati i pizzini per controllare tutte queste sale da gioco, eccetera. Questo per dire che noi dobbiamo stare molto attenti ai nostri contesti, alle nostre realtà. Non è un atto d'accusa rispetto proprio a nessuno, ma certamente io sono inquieto quando vedo queste situazioni, queste faccionerie che ci circondano in un certo modo. Ma lasciatemi dire una cosa: la meraviglia dei nostri ragazzi, veramente la meraviglia dei ragazzi. Se tu pensi che quest'estate sui beni confiscati, quando abbiamo aperto le iscrizioni per i campi di volontariato, per dare una mano a quei giovani delle cooperative, in poche ore 4.500 posti esauriti, ne avessimo avuto 10.000 o 11.000 ragazzi. L'abbiamo raddoppiato quest'anno, però il problema è che ci vogliono i beni confiscati. E quando voi vedete quella cifra ufficiale di 11.000 beni confiscati, attenzione che non traga l'inganno, perché quei beni confiscati, quella cifra, i beni confiscati non sono tutti della mafia. Li hanno messo dentro quelli della prostituzione, che c'è una legge, quelli della droga, che c'è già un'altra legge, e quei beni lì confiscati a quei giochi criminali, con quelle leggi che sono scivolate via senza l'attenzione e la furbizia di qualcuno, possono essere benissimo venduti, già da prima. Noi abbiamo chiesto di mettere tutti insieme le confische, di creare un criterio unico per tutto, per tutti. Però i beni confiscati, non dimenticate, io c'avevo anche il numero esatto qui dell'ultima operazione, ma poco importa, di quei beni confiscati, non dimenticatelo mai, circa 3.500 degli 11.000 che c'è dentro tutto, non sono stati destinati, ma già confiscati. Allora uno dice: ma come mai non sono stati destinati, anche se già confiscati? La ragione è molto semplice, è che molti di questi beni, che ho appena detto, circa il 50-55%, non possono essere destinati perché sono sotto ipoteca bancaria. Le banche dicono: pagate al comune che è l'ultimo destinatario dell'ipoteca, tu comune pagami l'ipoteca, oppure tu associazione che vuoi prendere quel bene mi paghi l'ipoteca, ma immaginate se il comune e l'associazione hanno i soldi. Devo dire per correttezza che alcune banche hanno liquidato questo aspetto, ma solo delle rarità, non è una cosa generale. La restante parte di beni non consegnati, una parte sono divisi con altri. Il mafioso ha un palazzo, ma abilmente l'ha destinato, ha intitolato dei pezzi del palazzo ad altri, che magari restituiscono con dei favori. Lui magari c'è solo un alloggio, parte però divise con altri, quindi resta difficile risalire, ecco, una parte sono ancora occupati da parenti, viceparenti, prestanomi, e quindi noi abbiamo un buon numero di beni confiscati in Italia, anche se oggi abbiamo una buona agenzia, abbiamo un bravo prefetto che la porta avanti, però ci sono alcuni nodi ancora una volta politici. In ogni caso, su queste cooperative di lavoro, di giovani, vedere d'estate andarci alcune migliaia di giovani a sporcarsi le mani di terra, a scavare nella terra, a dare una mano, e beh, è il miglior modo di scavare nella propria coscienza, ma anche nelle coscienze degli altri. E vedere oggi quell'olio, quel vino, quella pasta, con quel marchetto libera terra, dalle terre liberate dalle mafie, anni fa non avremmo parlato qui a Cantù. È un segno di speranza, è un segno di cambiamento. Fra pochi giorni il Café de Paris, in via Veneto, il caffè storico per eccellenza, confiscato all'Andrangheta calabrese, ma aveva preso il Café de Paris, aveva il bar di Palazzo Chigi. E uno dice, sì, lo so. Ma in mano lì, questa mafia così liquida che penetra. Ma la cosa bella, che noi tra pochi giorni faremo un piccolo segno, ecco, perché questo caffè, adesso c'è un amministratore straordinario che lo amministra, è stato ripulito di alcuni personaggi ovviamente, però vive in attesa di come sarà definito il tutto, però l'amministratore giudiziario eccetera dice: no, io voglio subito che sugli scaffali del caffè, sui tavoli del caffè, sui banchi del caffè, i tarallini di Libera, l'olio di Libera per fare i panini benedetti, il vino di Libera, voglio che qui si sappia, e chi l'avrebbe detto, il Café de Paris. Ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Lo so, sono piccole cose, ma sono segni concreti. Ma devono allargarsi, devono moltiplicarsi. Dobbiamo trovare più persone che si mettono in gioco, che ci credono, che ci investono. Allora in questo senso, voi ricordate i funerali di quei tre stupendi ragazzi, tre pugliesi, andati a morire a Capaci, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Io ho visto singhiozzare la mamma di Antonio Montinaro e la mamma di Schifani, un 23 maggio di anni fa a Palermo, nell'anniversario, queste due donne singhiozzare. Io non riuscivo più a fermarle, poi ho capito perché. Perché c'è il rischio che il nostro paese, in queste giornate, uno dica: oggi è l'anniversario della strage di Capaci, la morte del giudice Falcone e dei ragazzi della scorta. Ma per una mamma, per un figlio, per una moglie o viceversa, vogliono sentire il nome della persona cara. Mio figlio, mi ha detto la mamma di Montinaro, avrà pure un nome. Perché non dicono il nome di mio figlio, che è morto per la stessa causa a cui è morto il magistrato? È vero, il primo diritto di ogni persona è essere chiamato per nome. essere chiamato per nome, il primo diritto di ogni persona. Ecco perché noi quel 21 marzo diciamo tutti questi nomi. Ecco perché dentro le nostre realtà ci deve essere non la retorica della memoria, ma questa giusta attenzione. E qualcuno di voi, più adulto, ricorderà il funerale di queste tre bare lì davanti. È una ragazza di 23 anni che va al microfono piangendo, coi fogli in mano, li perde, singhiozza. È Rosaria Schifani. Lì davanti c'era la bara di suo marito. Aspettavano un bimbo, da poco. E lei dirà queste parole. Io ve le regalo di nuovo questa sera, già molti di voi le conoscono, le hanno sentite allora. Ma lasciate che ci entrino dentro ancora, perché sono i volti di quella fatica che chiede speranza. Perché lei, Rosaria, va al microfono, è difficile in quel momento, e griderà: uomini senza onore, avete perduto. Avete commesso l'errore più grande, perché tappando 5 bocche ne avete aperte 50 milioni. Vi offro il mio perdono, inginocchiatevi e cambiate. Rosaria ha preso carta e matita un giorno, mi ha scritto una stupenda lettera, nella quale mi dice: Luigi, mio sogno, quelle parole che ho detto in quel momento di grande dolore, purtroppo non si è realizzato. Perché in quel momento sembrava che tappando 5 bocche gli avrebbe aperto quelle 50 milioni di italiani. Manifestazioni, lenzuoli di finestre, tutti qui, vie nominate, aeroporti col nome, tutto. E oggi siamo di nuovo qui a parlare di tutto questo. Siamo con questa operazione con l'aria grigia più pensata. Siamo qui grazie a chi sta lavorando per scavare in profondità. E quanto altro marcio c'è? Che se avessero maggiori strumenti farebbe emergere ancora di più. Penso all'operazione Minotauro fatta a Torino, dalla procura di Torino, perché è arrivato un procuratore, già quello di prima, stavano lavorando sodo e così via. Ma non basta quel lavoro della magistratura, sono loro i primi che gridano, che hanno bisogno di sentire una società che c'è, che fa. Siete le cose che voi fate in sostanza. E Lorenzo si ricorda molto bene di una donna con cui Libera nasce, la donna con cui io ho condiviso i primi momenti di questo cammino. Gli hanno ucciso un figlio, il suo nome a qualcuno dirà nulla, a qualcuno dice già: Saverio Antiochia. Saverio Antiochia aveva un figlio nella Polizia di Stato destinato a Palermo. E poi chiede il trasferimento a Roma per varie ragioni. Ottiene il trasferimento a Roma, ha qualche giorno di vacanza. Nel frattempo ha incontrato una brava ragazza e è nata una storia bella d'amore, bella d'amore. E lui a Palermo lavorava come agente alla Catturandi, alla squadra mobile, con Cassarà e con Peppe Montana. A quei pochi giorni di vacanza va a Palermo con la sua ragazza e in quei giorni che succede viene ucciso il commissario Beppe Montana. Lui partecipa ai funerali, ma un ragazzo intelligente, giovanissimo ma intelligente, respira nell'aria un clima pesante. Lo senti. C'è la bara di Beppe Montana che lavorava con Cassarà, c'erano tutte delle brutte vicende che erano avvenute. E che succede? Vede che Cassarà vive un momento difficile, ma non è tutelato. E sapete che cosa fa Roberto? Lui non era più alla questura di Palermo, doveva prendere il servizio a Roma, aveva dei giorni di vacanza, compie un atto d'amore, perché prende la sua ragazza e le dice: senti, lo so che avevamo tanto atteso questi giorni, che ce l'ha raccontato questo. Abbiamo tanto desiderato di fare qualche giorno insieme, ma hai visto che quel commissario non è tutelato. Ti spiace se sospendiamo le nostre vacanze? E lui volontariamente, scorterà il commissario Cassarà. moriranno tutti e due sotto 71 colpi di mitraglietta. Questi poco lo sanno che lui non era in servizio. Lui non ha lasciato solo quel commissario. E sua mamma, un giorno ci disse queste parole: quando ti uccidono un figlio, sparano anche su di te. A me avevano sparato quel giorno. 6 agosto 1985. E noi abbiamo pensato che quando ti uccidono una persona, vittime innocenti di tutto questo, sparano anche su di noi. Perché se noi non sentiamo che hanno sparato anche su di noi, perché loro sono morti per la democrazia del paese. Ecco allora la nostra responsabilità, la nostra corresponsabilità, il nostro esserci, il fare la nostra parte in un momento come questo. Certo che non è tutto qui. E quando il giudice chiede, ma il giudice chiede a due mafiosi: ma perché avete ucciso Don Puglisi? Dice: ma perché avete ammazzato? E un signore di Cosa Nostra di nome Giovanni Drago dice: oh, a verbale, a Brancaccio è arrivato un prete che non era dalla parte dei mafiosi. Terribile, perché vuol dire che qualcuno è dalla parte mafiosa. E il giudice, i magistrati, gli inquirenti mettono a verbale altri nomi, altre persone, tra cui Salvatore Cancemi, altro uomo di Cosa Nostra. Sapete cosa risponde Cancemi a verbale? Col suo linguaggio, evidentemente. Questo qua era un prete scomodo, un prete che disturbava Cosa Nostra, sicuramente al 1000 per 1000, perché un prete che si fa i fatti suoi, che predica la Chiesa e non tocca i mafiosi, sicuramente questo campava 100 anni. Quindi lui è morto perché ha toccato Cosa Nostra, non c'è dubbio, Presidente. A uno si chiede, abbiamo fatto i sacrifici degli agenti di polizia, carabinieri, forze dell'ordine, i magistrati. Penso ai giornalisti che hanno perso la vita proprio per cercare, per documentare tutto questo. Penso a Libera Informazione, che Lorenzo sta seguendo con degli amici. E pensando a Libera Informazione, noi pensiamo, è nata anche nell'omaggio di quei giornalisti che hanno perso la vita proprio per cercare la verità, per documentarla. E noi ricordiamo sempre, perché è morto pochi mesi fa, l'uomo, il giornalista, che quando è andato in pensione dalla RAI si è costruita Libera Informazione, il sito, no? Libera Informazione. Un osservatore sull'informazione per la legalità e contro la mafia, contro le mafie. Libera, perché parte da Libera, ma anche per dire che l'informazione o è libera o non è informazione. Questo nostro amico che non c'è più si chiama, che per noi vive ancora, fondatore di Real News 24, Roberto Morione. E Roberto Morione, grande giornalista, ci ha documentato, ci ha insegnato, abbiamo bisogno. Allora, quindi, ricordiamo quei giornalisti, ricordiamo tanti volti, tante storie, e ricordiamo questa sera anche quei preti che hanno perso la vita e sono stati ammazzati. Ma attenzione, mi chiedono: ma perché avete ammazzato sto prete? Questi rispondono così: ma sicuramente lui capava 100 anni se non toccava Cosa Nostra. Ma attenti cosa succede. Don Puglisi viene ucciso il 15 di settembre. 25 giorni prima, un signore in carcere, con urgenza, chiama il magistrato. Questo signore, mafioso, è Francesco Marino Mannoia. Il magistrato, nel cuore di agosto, va in carcere, il 19 di agosto, e a verbale Marino Mannoia dirà queste parole. Attenzione, nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Ora invece Cosa Nostra sta attaccando anche la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti, non interferite. Ma grazie a Dio la Chiesa deve interferire. La Chiesa deve interferire dove c'è l'ingiustizia, la violenza, la sopraffazione. Dobbiamo dire con chiarezza che il Vangelo è incompatibile con le mafie, con la corruzione, con l'illegalità. Bisogna dirlo con molta forza, con molta chiarezza. Lui dice, attenzione, che noi vi mandiamo a dire non interferite. Ma perché Mannoia chiama con urgenza il magistrato per dirgli questo? Per quale ragione dice questo Mannoia? Ma allora dice questo perché il 9 luglio di quello stesso anno, scusate, il 9 maggio di quell'anno, ad agosto Mannoia chiama il magistrato, a settembre il Giro del Puglisi, qualche mese dopo, siamo già nel 94, Don Peppino Diana, nel frattempo Cosa Nostra metterà le bombe in San Giovanni Laterano, un'altra chiesa di Roma. Perché? Perché? Perché il 9 maggio di quell'anno Giovanni Paolo II era andato nella Valle dei Templi. Ricordate quella messa, quel grido. Io però vi voglio raccontare perché il Papa ha detto quelle parole. E soprattutto posso farlo, spero con grande rispetto, con grande umiltà, perché ho conosciuto direttamente i protagonisti di quella storia. Ho conosciuto direttamente la chiave che ha portato il Papa a dire quelle parole. Cos'è scattato improvvisamente qui dentro? Perché il Papa era stato già una volta in Sicilia, nel suo pontificato, aveva parlato di questo. E era la seconda volta che andava, nei primi giorni che girava per la Sicilia, non aveva parlato di questo. L'ultimo giorno è a Agrigento, mangia nel seminario maggiore, riposa, si forma il corteo che poi scende lentamente verso la Valle dei Templi e improvvisamente il corteo si ferma. Il Papa scende dall'auto, entra in una porticina, starà 7-8 minuti, esce, risale in auto, va a celebrare la messa, legge l'omelia, niente. Preghiera finale, commento finale, niente. Il Papa sta per andare via, vedete i filmati, fa un passo, torna indietro e tenendo stretto quella croce che era il pastorale di Paolo VI, griderà quelle parole chiare. Il giudizio di Dio, convertitevi, vuole scuotere le coscienze dei siciliani a ribellarsi positivamente di fronte a questo giudizio di Dio. Parla di pancia. E uno si chiede, ma come mai? Tutto così improvviso. Beh, grazie a Dio. Io ho conosciuto chi c'era dietro quella porta. Per questo che mi permetto di potervelo dire questa sera. E chi il Papa ha incontrato dietro quella porta ha mosso qualcosa qui dentro. Perché quando noi incontriamo la storia delle persone, o ci graffia qualcosa dentro, o se no diventano tante delle altre cose che andiamo a ascoltare, a vedere, a incontrare. Il Papa li aveva incontrato, sono purtroppo morti tutti e due, il padre e la madre del giudice di mattina. Il giudice di Latina, quello che un capo di Stato aveva detto, ma cosa vogliono questi giudici ragazzini? Ricordate? Devo dire che poi chiese scusa, ma nel frattempo l'hanno ammazzato lui, il giudice di Latina. Aveva 37 anni, figlio unico. Si è scoperto dopo la morte che il giudice, che era ligio al suo mestiere, di alta professionalità, ecco, si è scoperto dopo che lui dava una mano a delle persone che aveva mandato in carcere lui. La legge era quella, io la rispetto, faccio quello che devo fare, però alcuni di quelli finiti in carcere, grazie alle sue indagini, alcuni per altri reati, che magari erano poveri, non avevano dei riferimenti quando uscivano, si è scoperto che lui spendeva quasi mezzo stipendio suo per dare una mano a chi aveva mandato in carcere lui, dividendo i ruoli. La legge è questa, la si rispetta, ma poi sono disposto quando, ecco, il giudice mi mattina. Lì c'era il papà e la mamma. La mamma mi ha detto, sai, io non sono riuscito a dire neanche una parola al papà, ma lui mi ha tenuto stretto, stretto. La papà dice, ho parlato tardi. E poi la mamma mi ha raccontato, perché l'ha fatto con me, come l'ha fatto nella sua casa di Canicattì. Lì l'ha fatta da Grigento, dietro la porticina del seminario minore. È stato l'incontro del papà con i genitori del giudice Livatino. Ma la mamma mi ha detto, ho fatto vedere al papà quello che faccio vedere a te. E mi ha aperto il diario del giudice Livatino. Io non so qual è la pagina che il papà ha letto e che ha messo in movimento, non lo so. Io so la pagina che io ho letto, di cui continuo ovunque a ricordare due o tre righe. Quando io ho letto il diario di Livatino, che lui ha scritto, che alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. È chiaro che non basta tanti baci bacetti alla Madonna a tutti i santi. Devi essere credibile, devi sporcarti queste mani, devi metterti in gioco. Ma l'hanno detto anche i vescovi, grazie a Dio, nel documento educare la legalità, quando c'è un passo che dice che il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali, deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità. E non basta enunciare l'ideale, affermare i principi generali, o ci sporchiamo e entriamo nella storia. Non so, voi avete certamente letto delle pagine meravigliose di un caro amico, Don Tonino Bello. Quando Tonino Bello diceva la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. È vero. Noi dobbiamo saldare la terra con il cielo. Ma vi leggo l'ultima, le ultime parole di Puglisi, pochi giorni prima di essere ammazzato. La sua ultima dichiarazione la farà un giornale. Non si è sottratto a parlare con i giornali, c'erano le minacce, c'era un clima pesante. Lui lascerà a un giornale questa dichiarazione. C'è in questo dolore, perché hanno ammazzato un prete. E con lui mettiamo insieme tutti gli altri, siamo in chiaro. Ma Don Puglisi dirà pochi giorni prima di essere ammazzato, lancio un appello ai protagonisti delle intimidazioni. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi tenta di educare i vostri bambini alla legalità, al rispetto reciproco, ai valori della cultura e dello studio. Chi tenta di educare i vostri bambini. Lui saldava la terra con il cielo, la terra con il cielo. Allora, cari amici, per questa sera, certo, abbiamo parlato, io vi chiedo scusa, abbiamo parlato di problemi che ci attraversano, ma abbiamo parlato soprattutto di noi, perché voi mi insegnate che noi siamo chiamati a impegnarci per liberare chi libero non è, perché col dono della vita, la vita ci chiede un impegno. E qual è l'impegno che ci chiede la vita? È di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E la libertà è la più grande espressione della dignità umana. È un diritto che Dio stesso ha voluto per tutte le persone. Dobbiamo liberare la libertà. Forse avete visto qualche giorno fa in televisione di una nazionale di calcio in Calabria. Io ero stato sempre in un noi, ma in un mio. Mi avevano chiamato a parlare di etica di sport al congresso delle arti sport a Bologna. E avevano invitato Petrucci, presidente del CONI, Abete, presidente della Federazione Calcio, Cesare Prandelli, allenatore nazionale di calcio. In quei giorni di nuovo scandalo, calcio scommesse, truffe, calciatori implicati, una storia che ogni tanto si ripete, tanto vero che Libero ha pubblicato in questi anni un libro, Le mafie del pallone, e hanno confiscato recentemente due squadre per mafia, in due squadre di calcio confiscate, immaginate voi. Io parlo di etica di sport e poi a ciascuno vi dico, ma scusate, tutti schierati lì, tutti autorità, tutti dirigenti sportivi, mi faceva anche molto piacere, poi altri sport che si sta rilanciando, mi sembrava una cosa bella e importante. Poi io però mi rivolgo ai vertici del sport e del calcio e dico, sì sì, che ho parlato di etica di sport, sono venuto molto volentieri, mi fa piacere, eccetera, eccetera. Al pomeriggio andavo a Coverciano a incontrare tutti i dirigenti delle squadre minori italiane che li coordina adesso Gianni Rivera e Picchio, Dessisti, ricordate, Paolo Picchio, gli ho detto come ti mettevano Picchio perché picchiava giocando, ecco. Io al pomeriggio andavo di là a Coverciano, eccetera, mi sembrava una cosa strana da Coverciano a parlare. Però io avevo lì tutti questi, dico scusate, voi non dovete preoccuparvi, dovete certo preoccuparvi di quello che sta succedendo, però voi dovete dare una testimonianza, mettere in fuori gioco l'illegalità, dovete dare un calcio alle cose negative, dovete educare i calciatori, in questo caso la nazionale, a prendere coscienza che hanno una responsabilità delle loro parole, dei loro gesti. I ragazzi li mimetizzano, ma devono calarsi, devono stare con la gente, devono dare il buon esempio. Il pallone deve continuare a giocare il gioco del pallone. Non mortifichiamolo, non esageriamo, restituiamo questa freschezza. Allora io ho detto, vi faccio una proposta. In Calabria, 9 anni fa, io ero stato a inaugurare col prefetto un campo sportivo. Doveva essere un complesso sportivo, ma non si è riusciti a farlo, un campetto su un bene confiscato al grande boss di nome Crea in quel territorio. In 9 anni non si è mai giocata una partita. Questo avviene in Italia. Allora io ho detto, la libertà va liberata. Noi dobbiamo impegnarci a liberare chi libero non è, chi è povero non è libero. Chi è sotto questa cappa non è libero, chi è senza lavoro va in ASE, non è libero. Dobbiamo, le ragazze sfruttate non sono libere. Dobbiamo liberare la libertà. Allora io ho detto, vi faccio una proposta. Mi si parla di legalità, calcio scommesse, fate un segno. Venite come nazionale italiana di calcio ad allenarvi su quel campetto. Per dare un segnale, per mettere in fuorigioco l'illegalità, la violenza, per dire che state da quella parte, per dire a questi ragazzi che voi siete disposti. Lo so che è un piccolo segno, lo so che gli eventi fine a se stessi possono essere pericolosi, ma bisogna leggere il potere di segni contro i segni del potere mafioso in quei contesti e territori. Bene, il 13 novembre la nazionale di calcio ha giocato su quel campetto. Ma capite com'è importante anche i segni, lo so che non cambia il mondo, ma sono segni importanti, perché quei bambini, si è fatto una squadra di calcio, adesso non una squadra di calcio, una scuola di calcio, hanno ritrovato un po' di forza. Non nego che mi posso aspettare, chissà, prima o dopo che risponderanno di nuovo loro. Hanno rubato quest'estate 35 ettari di grano. Hanno bruciato in Calabria 7 ettari di ulivi secolari. Ci hanno distrutto un mezzo villaggio turistico confiscato a Latina. Hanno fatto saltare tutti gli impianti a Castel Volturno. Ma bisogna andare avanti, non lasciare soli, perché alla distanza è il bene che vince. È il bene che vince. E quindi in questo senso noi dobbiamo trovare la forza, il coraggio, l'impegno, costi quel che costi. E questo è il senso dell'essere questa sera qui insieme. Io vi ringrazio, Dobbiamo respingere la corruzione della speranza, perché c'è anche la corruzione della speranza, di quanti illudono la gente, le false promesse, tutti questi giochi facili di soldi distruggono a volte, creano anche dipendenze nella storia di molte persone, la corruzione della speranza. Dobbiamo respingere la privatizzazione della speranza, di politiche che fanno solo interessi di qualcuno, danno solo speranza a qualcuno. No, la speranza deve essere di tutti. Essere qui questa sera insieme, pensando all'operazione Mato Grosso, che continua a vivere, a dare una mano, e che oggi vuol dare anche una mano a sostenere qualche progetto di vita nel nostro paese, è un segno di speranza. E allora, grazie di avermi accolto, di averci accolto, e vi prego che ci grappi dentro questa voglia di metterci di più in gioco tutti. Io so che voi lo fate, ma continuiamo a farlo di più insieme. Detto all'inizio che avremmo dato uno spazio anche per le domande, però siccome conosco i miei polli, so che Luigi quando risponde, risponde in modo argomentato, e ci siamo presi anche l'impegno di chiudere prima delle 11 per dar modo anche di essere a casa e dormire quelle poche ore che lo separano dall'aereo per di domani mattina. E quindi io, senza fare troppo, come dire, il padrone di casa, perché poi lascerò la parola al padrone di casa, vorrei ringraziarvi, vorrei dire appunto come Libera che la speranza non è in vendita, mentre il libro di Don Luigi Ciotti è in vendita. Ci sono delle... ci sono. ovviamente sono soldi ben spesi per la lettura, e poi vanno a buon fine, come avete capito. E vi faccio mio, come Libera, l'invito che gli amici dell'Operazione Mato Grosso ci hanno fatto questa sera, quindi iniziare a ragionare anche su un presidio qua nel Canturino. A Como si sta muovendo qualche cosa, quindi confidiamo magari tra un anno di poter, o anche meno, di poter dare vita a questo coordinamento anche in Como, in provincia. E lui ritorna, si prende l'impegno. A te la chiusura. Sì, solo un minuto. Innanzitutto ringrazio molto Don Ciotti, ringrazio Lorenzo. Ora però la cosa che mi viene da dire è che questa volta tocca veramente a noi adesso. Adesso la palla veramente ce l'abbiamo in mano noi. Perché Don Ciotti questa sera secondo me ci ha indicato un percorso, una proposta, una strada. E volevo riprendere un attimino quello che abbiamo visto nel video, proprio per chiudere. Ci ha indicato una strada sulla quale cominciare a camminare tutti insieme per uscire da quella zona grigia che abbiamo in testa, per uscire da questa situazione, cominciare a camminare insieme, magari anche a cominciare a contare insieme quei 100 passi che ci dividono dalla casa del mafioso detto il sultano, che ci dividono da una presa di coscienza che ci deve dire che dobbiamo fare qualcosa. E dobbiamo fare qualcosa, come diceva appunto nel testo, prima di che sia troppo tardi, prima che non ci abituiamo delle loro facce e prima che non ci accorgiamo più di niente. Grazie a tutti.